tutto che fai buccio. Lo beppi te. Ehi, a me pare un grillo, cazzo. A che adesso? E adesso c'era solo tre tipi. Fastidioso, Ehi, cavaniero, cavaniero. Il zodiaco stai usando. Ehi, adesso ce n'è uno. Ehi, adesso ce n'è uno. Bene, sta uscendo. Ah, sta uscendo bene. Ehi, avrai la bambù, sette mesi, mi. Ehi, non si rapigliato, non mi cuore, non mi cuore. No, era da fatto, a un calduccio. Per forza, si va via la coperta, gli allogria. Non si guasta che andate a parte, non si ripigliano freddo. E allora, va via pure l'impermeabile sotto. O c'è di più via. E allora, la macchina è rimasta asciutto. E allora, ma il microfono vede la bustina di nero per da grossa. Ora un bozzichino l'hai tappato. E allora, tutto tappato era, e manco un più vado bene. Ah, un grillo, e la tua parte ha entrato un più vado ieri. Cazzo, quella commessa in lanzo, oh ya. E allora, dici, tappami vedi che è freddo, mi. Ah, va bene, va bene. A cavaliere ogni tanto a farlo girare tu muro. Ehi, infatti addirittura è girata con lo zodiaco a farlo camminare un po'. Ma cari, bisogna la chiamata la batteria. Invece già è andendi. È andendi. È sempre buon premio, è sempre già la radio, bella accusa. Ehi, non per nessun altro, ha già fatto una spazzolata. Unia campuzzando. In FM Romate, se non vuoi un cane. Anche sono tutti dormiti ancora chizzo, capito? Luca vera ancora. Ma c'è da caso ero quelle cose, capito? Ci ho lasciato un po' che c'è da caso subito. No, io mi sto guardando la TV, quel programma. Quel canale 59 Alfa che vivono dove c'è la neve e il ghiaccio, che cacciano lì, quel programma mi stavo guardando. E là adesso è finito, viene un altro che non mi piace e l'ha disciudato. Ehi, intanto ne chiama uno, no? Non è che c'è di sempre un tipo, no? E altri tipi ne fate, capito? Perché la pesca, per la legna, per la caccia, e tutto fate, ne capito? Lo so, ma adesso c'è quello che scappano, che cercano quelle pietre grandi e fanno le perle e poi diventano i cinesi. La giada, quei mazzi grandi, e all'interno ci sono, fanno le perle, quelle verdi, mi. Si dà bene i buoni lanetti, arecini, braccialetti, vasi, nerigini, se la pagano bene, quel tipo di pietra, oggi sembrano smeraldi, invece è una preda, gli altri la fanno pagare a pezzi, Ma hai visto il mio maschio in capo di gatta? Senti maschi, pure la corda letale che c'è la metà grossa di Italia, gatta, si rende in nero, gatta. Pare di la fate di tutto. Un mio cantone, già l'ha giusto già. Un po' di volte gli è andato da me perché era proprio già la giada. Di chi sta proprio buona, bella, verde. Con chi sta si fate non vedi di niente così. Anche $1,000,000 non l'hai detto, che buccia, quando lo dice. Quando la gatta ne una di cibretti hanno fatto un bingo. Ma che c'è una montagna di dinà. Ma travagliami, dice. Ma dall'altra parte, ma sai chi si quei mezzi grossi, gatta, scautobiglia la ora, fa tiranini, gatta, non hai idea, un mezzo di appigliare me. Lo so, ma quel macchinario è tutta roba di loro, perché è una ditta familiare, chissà, è tutto roba di loro. Quando gli servono una pala vanno all'Assa, non l'hai visto, e se ne comprano quando ci sono le asse, no, di altre ditte che hanno fallito, e veniranno sequestrati tutti, e di andare a compareggiare. Almeno ho visto una da poco, hanno fatto l'Assa e loro sono andati, si hanno comprato una di quelle ruspe grandi con il braccio lungo. Io mi sono attrezzati tanti di ruspi che di una maniera finisco, Catta, io finne di là, ieri, Catta. State a cucciare poco questi mezzi così, ogni ruspa, cazzo. Cara, Rosca, l'ho visto, vai pure li guardo. Io pure, se ci vuoi, ci sono gloriosi, ma è di miri che si cose. E tanti tipi di film che date, ne capisci? Io te l'appoggio. Ehi, io te la spingo. Ciao, Antone. Però che andata ne uno di questi mazzi, e chi è bello pulito fare un bel di là, aspetta, vai Gian Maria che è entrato il bosco. Anche bisogna usciarlo, hai su bocco, bisogna usciarlo, ciao a tu, a te. Ciao, buonasera. Per ascoltarti tutti e due, tutti e due. Avanti Giomari. Lascia la porta un attimino senza parlare. C'ho uno zio d'alternata, lo sei. Fai la cabina elettrica, fai una cabina elettrica. Già lo sento, devo cambiare il cavetto di questo DM1000, capito? Perché gliel'ho messo quella 4 e non quella 5. E quindi farò un zio. Ehi. Va bene. Ripigliare, grazie. Perché non glielo cambi, gli pari una musica sottofondo, quasi non ne hai il filo. Ce l'ho. Aspetta un attimo. Lo fa anche così. Ora. Aspetta un secondo. Ecco. Così dovrebbe essere di meno. Così di meno, vero? Sì, così già è meglio. Non si sente quasi. Ho capito. Meglio così. Ho diminuito. Quando uno usi una voce, intendomi, non fa bisogno che me lo ripeti, mille voci. Tu intendi, Gian Maria? Ma è tu mi agusto quando usi, capito? Sì. Sto provando questo microfono. Aspetta che attacco l'altro, così vi suono la carica. Vabbè, non si può regolare quello lì, senza farlo ripetere. Se non ripete è meglio, dai. Il DM1000 sì che lo puoi regolare, è un villaggio nuovo, conservato nella ciatola. Mi raccomando, coprilo bene, mettere anche la bustina in nylon per appigliare per toccare il vento. Mettilo in fresco, mi raccomando, aspetta un attimo che adesso ho cambiato microfono. Adesso sto usando questa verca, bene ti va. Ma si sente un bel di gente chiacchierando, un casino si sente. Perché questo è accende il televisore dove andare la camera di Simone, accende solo quello, capito? Male che si rompe, male, eh? Aspetta, ecco, adesso va meglio. Sì, senta, lo stesso, un bel casino, gente fa ridere, il televisore. Il televisore, televisore, capito? E si alerta che pompa parecchio con questa baracchina qua. Ma però così è fastidioso perché si sente ogni minimo rumore lì, il televisore ti dà paravo da te a Giumai, vero Giumai? Beh, chiaro, perché ripete anche, capito? Basta quello che dice lui, anche il televisore ripete, per cui si sente un saccaggio di giambotto, vai. Gli piace così, per noi va bene, ma te sì. Piani o microfoni, adesso sto usando l'altro. Quello palmare, va bene? Adesso va bene, si sente più chiaro e meno casotto. Già lo sento il televisore, ma non come poco fa. Allora Maria, quando ve l'abbia fatta, gli vi piace fare segni. Ci sono tutti i zicchirieni, vero Gio Mario? E non mancato, pare che sia, e non mancato un bescio. Certo, no, piace il segno, non è buono, è buono, qualcuno può dare la voce, piace il segno. E non mancato un bescio, pare che sia. Guarda, quando fanno le fucate picciare qua, sabato notte te le faccio sentire, Metti il microfono fuori, se le senti fucate picciare, in sabato sera, la notte Marì. Va, c'è un tic che va più bene, va. Adesso va benissimo. Ma lascialo così e tutto va bene. E questo come sta uscendo? C'erano. Oh, ce n'erano dalla parte di Sant'Orsola e anche qui vicino a casa, vicino dopo il grattacielo. Ah, figurati. Ah, qua l'altra volta avevano fatto la festa. A Carbonazzi, via Aguola Malfa, era pieno di anticorpi, sono andato 5 minuti ma non sono fuggito perché c'era il cane che si metteva a abbaiare, tutti i cani venivano, ho dovuto andarmi, perché non faceva rimanere lì, si sentiva più il cane che il pieno di anticorpi. No, che buono in piazza, e no, che l'hanno infatti, la che da passata, i fuochi, buono 20 minuti erano, no, quelli non li hai visti neanche. No, non ho visto per niente. No, ma qua col binocolo vedo tutto io, già lo sai Gio Maria, si vede tutta la zona vostra. Vedo tutte le abbotte, con tutto vero. La palatina dove ci sei tu, Sant'Orsola, tutto vero. Vabbè, bisogna di fuochi d'artificio, bisogna tutti quelli extra, vero Gio Maria? Anche bisogna che se ne lo vietteranno e gli sardona, capito? Così che non bisogna di fare i buchi d'artificio, già rifatti gli vietteramiti ivi. Lui chissà quante macchine mettono fuoco di attivare i buchi d'artificio in quella zona. Un giorno sì, un giorno no, ce n'è una che scoppia, poi fa boom, boom, boom, boom, boom. La volta del coso era bello qua vicino, che hanno preso fuoco le 5 roulotte. C'erano 4 bombole del gas, sono saltate tutte in aria lì vicino a Pugliesedda. Sì, già lo credo. Io una volta in falegnameria c'era un buco in mezzo alla danca della falegnameria, no, nel terreno. Ma adesso buttaci tutta la cartaccia lì, quelle bombolette, buttale tutte lì, quando è pieno li metti il fuoco. E la dice, mica le bombolette quelle tue scuse, lei già sono dentro il buco. Ma quando era pieno l'ha buttato un poco di benzina, l'ha buttato un po' che me ne sono andato alla rete a fiaccare un cappannone, no, a zittenni, quando copiavano le bombolette. Devi vedere cosa variano, bruciava il burro, ma lo sai quanto andavano in alto, ma in alto, che non è un'idea. aria ne razzi, Maria, e poi mi scoppio. Sì, ecco, non te ricordi, insomma, le cose l'anno scorso o 3 anni fa, che hanno buttato le bombe dentro la busta della rondezza, che è quello del... il turbino, quando ha schiacciato la bomboletta, non gli ha detto gli occhi. Se ne è chiuso quella carrozzina da Trento, ma eppure ci avevi pizzicato il bullo, ma l'avessi imparato. Si vedi la camminatista alla parte giusta. Io gli ho detto, a me mi metto a buttare tutte le appunti in fuga, che faccio qua? Questa cosa, Gian Mario, gli animi di poco bomboletti volendo in aria, ma in alto, mi è poi ogni zocco. La Ucraina, poi quelle fatte è brutto, mi scatta. La Ucraina, per un caso, Trento, via. Bisogna stare attenti a questi bomboletti, a fare vicino, bisogna stare ben attenti, perché sono pericolosi. Sono delle bombe, delle bombette, ma si sta acciappa, se ti becca che ti fa tirare addosso, che ti fa di vedo già. No, ma uno bisogna impazzire questi bomboletti, che sono quasi biuti, Antone. Sono peggio, quando sono piene fanno meno male, ma quando sono vuote sono talmente piene di gas all'interno. E lo devo lasciare fuori, no? È come lasciare dentro la macchina, tu prova a mettercela in piena estate, ma una di quelle bombolette attaccate al vetro a vedere cosa succede. Ma quelle che ho buttato io lì erano bombolette di polito espanso, schiumami, che adoperevamo in falegnameria, secondo che lavori facevamo tamburellati, e poi aggiungevamo la schiuma, no? Quando ce n'erano di quelle mezzo guate, di quelle che rimanevano a metà, di quelle vuote, a me mette la faccia di tutti lì. Tu dovevi vedere il zocco che pagliani e l'altezza che raggiungevano, invisibili, non li vedevi più, non si vedevano poi, sparivano. Figurati tu! Ma sono così già. Sono pericolose, sono veramente pericolose, questa roba qui è pericolosa, quindi non ci può fare nulla. Se ti gioco dei zenni, variani bombe, a parte quelle che non si sono alzate in alto, che erano di traverso, che si esecuti 30 a rubù, sì. Rubucco che ne fate se si è entrati 3 sotto di Rubucco 30 lo terreno pariani dune. E immaginati, tu non sai cosa devi fare, devi mettere in fila una attaccata all'altro, metterci un bel tubo sopra, adesso acceso il fuoco sotto, e saresti andato. Infatti già saliva sopra, avessi messo un cordone, con un dipolo, mi. Adesso già mi faccio un paio di DX per un paio d'ore. Tu mi vieni a cena, tu. Ma io non me lo credevo, io credevo che si scoppiavano, tipo come quelle del DTT, della Raca, che sono più piccole. Questi bariani, socchi di un cannone, bariani. Di quanto sono le bava in aria, non le vedevi più quelle che si sono alzate in aria, poi là si sono tutti 30 rucco, il muri ha fatto una groviera anche su buco, ma non sai in profondità quei buchi che faceva, roba di bizzigati, si scappava da parte in parte, a capo ti si buttava bucapo, Gio Mari. Qualcosa da giocare, sì, no? Non so cosa da giocare fin alto, chissà cose, no? Allontano quando si fa questi travagli, bisogna allontanarsi in modo che... Però i tre sattetti bucati di fare le bici, buro. No, le bici da voi un po' di poco, la giusti bici la mia, la parendini, dall'aria, tutti tre tra campagna. montagna, ma te se ci sono fatti, quelli che sono sollevati in alto. Vedi che si sono esplosi, entrati 30 rubucco in un muro, che ci sono rimasti 30 sotto terra. Ma ha fatto il tunnel, ha fatto, ma gli ha fatto proprio un coso rotondo fatto a fusca. Invece chi c'è entrata l'esplosione, la pressione, figurati, si è camminato sotto terra. La ciappa di fare, si oltrepassa andare in faccia, si basta questa cosa, è poco forti, mamma mia, che giù la palla. Se me l'ha detto un carrozziere, ne sono usciti da frente l'officina, questi carrozzieri, anche un pezzo di capannone a fianco, l'aveva affittata questi carrozzieri che prima erano i bunti, che aggiustavano il pullman, sulla via principale, non so se la se lo sapevi, lì c'era un carrozzere che faceva le ricostruzioni anche dei pullman incidentati o di pratiche, li smantellava a zero e li ricostruiva e se ne era sceso da noi in falegnameria quello, avevano mi messo il nome, chi se ne è andato Brulaivi, Iccio, ed è più su di fronte alla fattoria e adesso in chi si campagna di lì. Sono fuggiti dai che se ti mettono a seguire, fa di coppia di coppia di altri, si dice bomboletti tu. Ah, ma me l'aveva detto questo, l'ha detto mica, ma quella di scoppia, me la c'era dentro il buco, vabbè, te se la potuti dire. Cadera bene, non mi ha detto a pure il buco, e così ha già fatto. Già mi sono accorto da Reggio all'angolo del capannone a Baiselli, a chi c'è voi la messaggi ai? Impresa Antonè, si dice la parte sarà la rocca, e c'è senza la lampada la rocca. Allora, hai visto, è stato furbo almeno. Oh iaia. Così bisogna fare, così. Così la devi mi ha detto, Gian Mario, prendi il muletto e buttane giù a terra la canna fumaria, roba è 30 metri questa canna fumaria. Canta il muletto era di circonferenza, e la dice ma scherzando, no, prendi il muletto, l'imbraghi, tiri da sotto, ma poi che quella lì se ne scende, se cade sul capannone va si danno un bel. Non ti preoccupare, già te lo dico io, vabbè, io il muletto. Manco mare me ne sono cucuto in terra, dannata il muletto quando si era venne di bocca, la Dio mi l'ha imbragata e tu, mi l'ha fatta dire e mi l'ha giubito, quasi quasi nata di mamma ammazza. Ma come ha cucuto un coro a terra, e mi ci sono cucuto a terra io. Hai cicciato tutto la vettoria del muletto, ha truccato il manubio, un sedile non ne va vedendo spiaccicato, non ti sei nata il muletto. Insomma, ti voglio ammazzare, lo si fa a te, va, gira, bobo, cazzo intelligente, mi hai giubbato. Ehi, fanno pagare la gru, l'hai compresa, chi aveva domandato a vari tipi che ci avevano la gru, quanti muriani a bragallo, ma basciannire o no? Che era niente, col cestello dovevi saldare il bollone dei cerchietti e mano a mano ne riparava la gruppa. Ma non pagava, andate sullo zocco che vi vogliono un bel di dinà, allora mi ne ha fatto il cudi a me in terra. E la rima dici, certo, te lo sai che c'è il santo buono, tu. No, lo santo buono ve la forse, ma chi ci pirrà, rimani a sotto, agli, un amare che ti veglia, ti l'abbia dato per bugliere a te, a quel santo buono ti abbia dato, assassino. Attore. Non sa fatto fuori. Ehi, non sappia quanti fa mammazza, che poi ci aveva già provato lui con un altro, oh, che lavorava su alle punti, ancora Antonio. Non ne sappia nemmeno che mi aveva provato e che si è rifiutato di pigliare muletta e l'hanno fatto finire, la disavessa era male. E allora è giunta di là a me, hai compreso? E la nostra sera dice, mica quello è pericoloso, non è che io, lui dice, invece mi ne vanno andato, se vanno un gappannone, ne rampano un gappannone, non è che pensa così, quella è bella lamiera grossa, vedo bizzante, e poi l'ha visto quanto è lungo, e già la sera quanto è lungo, e ti uccida, ammazza te, tu vuoi vedere il gioco che ha fatto, una bomba, dentro ma sei ucciso un pezzo di sopra un cappello e 5-6 metri sei ucciso hai paratura in mezzo a un cannizio figurati la veloce dai paga con un cappè avvisi a cappà con la pantalone in mano mi chiedi via oh t'ammazza come entro il giorno se ti so che disegna hai chicciato un muletto l'usenile l'ha spiaccicato la benzelina che bisogna 4 dubbi comunque c'ha rete metallica già lo sai come entro chi si ne si è craccato innanzi a l'usenile figurati la borsa che va via quando si è dato di borsa come l'ho tirato. Chissà magari era voltoliato un cannone, una cosa metallica, magari è accalzata allo muletto, magari va per cuccarlo, però essendo lontano però. L'unica era così, no è finito con il muletto. Non faceva col muletto, se era lungo, ma lo sai quanto era lungo, un bea, poi non me la metto, ma era un bea alto. Era del bruciatore, capito? Quel tubo lì. Ed era un bea alto, ma un bea. Io mi muri alla gru, via. Col cestello salire, imbragarlo e tagliare col cannello i bulloni. E poi su la dignità. Dalla gru e poi con la gru lo sollevava a pezzo, elemento a elemento. Ne lo levava dall'incrasso e ne parava chi subito, capito? Ma no, a tagliarlo perché mi l'ha fatto vaetto. E da poi a tirarlo così. Un assassino. E io poi glielo detto, è stato lui a dirmi a fare così. Mica io non è fatto. E tu fai così, non ti preoccupare, vabbè, sai. insomma, ti voglio a voce, là. Ti voglio a voce, ma quella poi non lo conosco, Graziano, e sono tranquillo. Così, Antonio. Allora, se la muovi di rampa, muovi di droga. Allora, già mi ha detto che va via Santo Buono, va via, io vado a Santo Buono. Se però non mi ha chiusato l'avevo visto, a cui Santo Buono direi scizzo. Un attimino mi assento, dai, 5 minuti mi assento, fare il cucchiaccio a piccolino. Ehi, va bene. Vai con comodo, io Mario, non c'è problema. Allora, grazie, allora stai combinando di bello. Sì, cosa per il combino, sempre in casa. Qualche uscita già me l'ho fatta. A mare, agriturismo, qualche ristorante, qualche pizzeria, qualche passeggiata così, però... Poi del resto sempre lo stesso, mi disini, ieri sera ero al controllo dal diabetologo, avevamo detto di andare fra 2 mesi a dicembre per controllarmi di nuovo la glicemia e io va bene già vengo a dicembre. E poi mi ha prescritto la visita agli occhi, però per il prossimo anno stamattina mi ho preso l'appuntamento e me l'hanno fatto a gennaio, il 23 gennaio. E cosa vuoi? Niente, sempre la mattina tram tram, medicine, ossigeno, fisso, notte e dì. E cosa faccio? Qualche cazzatella così già me la faccio in casa, ma... Io mi... mattina sono uscito a fare i documenti, certo, e quindi, ecco, gli altri giorni a casa, stavo facendo di testa, cioè senza, non c'è niente, sono andato a controllare se c'è lavoro, non c'è niente, non c'è assolutamente nulla, l'unica cosa è stare a casa, sono uscito di testa, quindi a un certo punto sono fatto la passeggiata via Centro Studi, come sono fatto, mi sono bevuto una birra, poi mi sono risalito a casa verso le 9, 9 e mezzo. Poi l'altro giorno sono uscito lo stesso, adesso dopo vado a prendere la fede, se ce n'è qua vicino, ho fatto una pizzeria nuova, sperando che ci sia, io la fagna me la mangio con mio fratello e così faccio compagnia anche a lui per passare un po' l'ora, però non è nulla di male, nulla, non c'è proprio nessun lavoro, nulla, siamo due morte qua a Sassari, non c'è più nessuna azienda, nulla, non sono mai più nessun posto, a meno che succeda qualche miracolo, cosa vuoi dire, magari scendiamo in Vella Pavottore, se vicino in campagna mia, in quel fiume che c'è, magari troviamo oro, andiamo lì con le padelle e andiamo a recuperare oro. Non c'è più un cazzo a Sassari, non venuta, travaglio non venne, si sei cantoni con noccio di nocchi, tutti i travagli cantoni bucani, una azzurrata, mezza azzurrata, un paio di dì, e canto la carta nei burri, se non rivedi tutti in fila, i chivi, imburati, non venuta proprio, è una crisi, ma crisi, per carità. Non se ne andrà a fare ciò, cavaccia mano, chi non si è andato, anche lì vicino mi doveva mettere su, se ci chiedi sopra, verso su, in quelle campagne lì, cazzo, ti fai l'umaca e ti rifai in dinanzi, se ne fai un bel. A 10 euro te le vendi, a 6 ti richiedi di fare di là. La femmina moglie è andata, che ha fatto, diceva, è andata qua vicino, se ne ha fatto mezzo sacchetto di riso di patate, ma in giro di 2 ore mi c'è stata, è andata e tornata. No, non la conosco, ma il problema è quello, capito? Non conosco la misura proprio standard, perché per venderle, quindi fare magari quelle piccoline piccoline, cioè vedere le butterie a un certo punto, quindi no. Non fa, poi sono anche a piedi, forse stato magari in motorino tanto quanto, è una cosa diversa. Cioè, è salito su a Usilo, avete fatto quanti ne vuoi, perché lì è tutto pieno di campagne. C'era andata a limitare la campagna di un amico mio, si è entrato dentro, con quella scusa lì mi aveva fatto dare anche un po' di uva, quello che è, me l'aveva mangiato. Ma sono a piedi, il discorso è quello, non fanno. In campagna mia, meno male, adesso hanno fatto il ponticello, hanno comprato, quindi ormai il terreno che c'è a fianco a me non è più il erba, capito? E quindi arato e cose del genere, ciuchita non la c'ha più. Quindi se no si è sceso a dimettere entrambi avrei fatto qualcosa, ma se la via in Napoli. Antenne non le faccio i negri perché tanto non mi bagani, quindi è inutile. A un certo punto sarei sopra il tetto a ammazzarmi per questi qui, e poi tutti i 50, loro te ne hanno 30, a un certo punto te la pegliano in quel posto, capito? Ma i tetti si stanno morendo, non ci sono una coppia di antenne da fare, nulla, poi adesso fra poco glielo sai anche tu. Prossimo anno nel 2019 le antenne della TV spariscono e tutto via campo, tutto via con la fibra ottica, la TV la vedi solo esclusivamente con quello e basta, perché ormai le frequenze 5G usano i ripetitori di quelli telefonici, capito? E quindi siamo fregati. Tecnologia ha molto un bel di travagli, un bel di enti, ma un bel ammazzato a tutti, radiotecnici, operai che lavorano. lavoravano nei distributori di benzina, un sacco di lavori, e ha fatto sconciare la tecnologia. Non vuole la tecnologia, niente, era un travaglio non fare la tecnologia e tu muori di fame, non è comprese. Uno schifo, andiamo a migliorare per produrre di più, però l'uomo deve rimanere a casa senza fare nulla. Vedi la tecnologia di cazzo. Purtroppo così non ci può fare niente. Hai visto in Giappone cosa ci hanno inventato? C'è la tipa che è un robot, ma proprio se lo vedi sembra una donna, l'ho visto stamattina. E in pratica il telegiornale fa, capito? Quindi mai anche i giornalisti fa poco sparisco. L'ho visto la televisione e l'altro giorno c'era un programma, non ricordo che programma, e stavano intervistando le vecchie donne che ci hanno mandato in pensione, anche chi non doveva andare in pensione li hanno liquidati, no? e li hanno mandati via. E quelle che c'erano prima, che presentavano i telegiornali, tutte me le ha fatte vedere, tutte persone ce l'hanno mandate. E non dureranno stare ma con i bisogni. Mi sembra che verso il 2021 non ce ne sarà manco uno di questi giornalisti che vede il telegiornale. Un robot, capito? Mette un robot e siamo a posto. Lo programmano giorno per giorno, capito? E da le notizie e tutto. Fatto quello stamattina in Giappone, quindi figurati tu quanto ci metteranno qui a portarlo in Italia. Perché parlano un giornalista, capito? Ci mettono quelle le bambole così, ci mettono le brasse che fanno tutto. Papà, che non è vero, i giornalisti ci saranno sempre, che siamo in Italia, non siamo in Giappone. Maria, se pensate, è andato in ufficio piccolo, è perché non l'hai visto a Torino che hanno aperto la casa di tolleranza con le bambole, non l'hai visto, pure la televisione, la vita l'ha fatto vedere, tu paghi, andi e ti dati in una bambola. Almeno sei tranquillo, capito? Non ti prendi la riese. Però se le ha fatte vedere, sembrano proprio persone, però avranno un gioco come il funzionamento. L'ha detto, no, non ci ho fatto caso molto, capito? Magari si muovono, cosa ne so, storia tu non te ne sai. È tutta pubblicità, è tutta pubblicità. Noi non siamo in Giappone, ma fai che gozi. Ancora che andare via in occhi saremo ancora trattenuti vecchi televisori. Questa cosa già si sa che nel 2023 questa cosa sarà. No, io sto dicendo delle donne, quelle lì, del telegiornale magari quello sì. Delle donne a Torino l'hanno già aperto un locale così, una casa di tolleranza, come le vecchie case che c'erano un tempo. Lì l'hanno aperta, però sono bambole di brasse, caso cosa dico. Era tutta pubblicità che erano in vendita, chissà. Ho fatti vedere che io pure una bambola, se vuoi dire sì. Però chi devo dire, mamma cosa me ne ha fatto di la bambola? Chi devo carri tu? Magari questi bambole con le tecnologie che hanno fatto, bene Antonio, magari si muovono, cosa ne so, sarà così. A chi c'è roba che vede il minimo dalla Cina? Allora da quello che venga. Tutto roba cinese, andiamo via, andiamo. Antonio, come te mai sei un po' garito, tutto a coso, ti sento come gru gru gru. Telefono! Gru gru gru, come gru gru gru? Sto usando il microfono palmare. Oh, va se scendi, invece scendi. Ancora bari cazzo tutto quanto a coso. Faccio, ti stavo ascoltando, barriete, e non saprei questa bari. Bravo, ma non mi interessa nessuno, poco fa neanche già via. Ho dovuto attaccare questo microfono qua perché l'altro in saletta si sente il tutto il rumore del vicinato, anche quando va, quello di vicino va a trombare. Ehi, ma è sempre qui che se metto, per esempio ce l'hai, se metto in un altro canale ti sento in un altro canale, ti sento. Tu si eri tu. Tagito, boh. Ma dopo un po' che ha giurito che stavi, che sei migliorato. Ha giurito, ah, ti sento benissimo. Evidentemente la legge mette fuori. Mi senti. Questa è la realtà. Fate la differenza che c'è. Il televisore mi informa in fondo, mi figurati tu. Tu sei con la bomba 7 in questo momento. Il 200 canali che avevo riparato. Gli ho tolto la, il clima della DC. Ecco perché tomba, ma tomba, tomba così. No, conviene abbassare la penna del coso, anche se non è tutto l'abbruzzo. Questo è bello, la pareggia. È molto sensibile, è amplificato parecchio, adesso ho diminuito il mic, adesso va meglio, vero? Mi senti, come erano problemi? No, così si sente meglio. No, intendo tutto quanto, da ridu. La voce tua intendo il bongo, intendo tutto quanto, da ridu, intendi. Mi viene in mente, meno male non c'ho il pappagallo, il mello indiano, se no... Te lo ricordi a coso? Fanculo si chiamava, che è ancora vivo, il tassista, quello di San Giovanni, quando parlava a baracchino si metteva in bell'indiano là dietro, a fischiare, aiuto, Alessandro ha coraggio, Alessandro non ti intendo bannuta, ti sono modulato il bell'indiano, ma è una cosa, mettecelo nel giardino. Già avevo sentito anche quello lì. Boh, andava e anda. Aspetta un attimino, che tu ieri mi stavi dicendo che nel coso, il PMR mi sentivi basso. Così è. No, ti sentivo basso perché in pratica io ho lo spinotto spaccato, capito? E quindi ho dovuto usare la tela in gomma e dovevo stare fuori dalla finestra, se mi giravano da una parte sentivo bene a te, se mi giravano dall'altra sentivo bene a Luca, oppure a Battigia, e sentivo addirittura anche a Franco di Sosso, però dovevo stare sempre, cioè, in giro per le camere più che altro. Adesso è per non aprire la scatola dell'apparato grande in PMR, se no li avrei messo direttamente il PL e vaffanculo. Siccome da parecchio tempo che non stiamo più usando il PMR, ho preferito metterci il quadribanda dentro la scatola e basta. Non è che mi rovino il quadribanda per lasciarlo in mezzo alla polvere quando non lo usavano nemmeno, per dire. A parte ciò, per la 27 c'ho il Saturn Echo, poi c'ho quella 87, il Superstar 3009 e il Connex 4000, quindi la voglia al baracchino. Per il PMR ne ho 4, c'ho i due Bofeng con display e gli altri due li ho 88. Quindi a un certo punto, cioè, ho preferito conservarmelo in scatola, l'ho comprato nuovo da Marco. L'ho messo in camera a letto, dentro la scatola, almeno non prende polvere, non si rovina niente. Era sprecato lasciarlo sopra mobile qui in camera mia, anche perché io ho l'abitudine di lasciare la finestra aperta, quindi entra la polvere, hai capito? E siccome c'è la ventolina con l'apparecchio lì dietro, ma vorrei magari poi si riempie la ventola di polvere, cazzo, e mi incasina tutto. Per quello sì, ne vado e a pulire lo dentro un altro. Per me usavo sempre il bongo, lo usavo musende, quindi non usando parecchio la 27. E vabbè. No, ma questo è quello piccolino, come quello che c'aveva Bacchisio, mi. È piccolino questo qua. Il PMR o il Bacchino? PMR! La me ti dice che ti ha dato a Gonzalo Minorillo e a Tabiccio, come quello lì è. Già capito, uno di quelli l'ha avuto mio cognato, poi ha raccontato altri due mio cognato e ha fatto una cagata perché ha preso la parte sbagliata, poteva essere V e solamente V. Non riusciva, ce ne aveva pigliato due, usare come punto radio, non riusciva a copiarli, capito, perché era un casino. È stata prima settimana, la prova con questo BB. A un certo punto ho detto, fa la cosa, va a partire dalla rondezza, gli ho detto, venditevi, che fai prima, ho detto, te ne prendi, ho detto, un fare in banda, gli ho detto, come se ero, comunque dove c'ho io, gli ho detto. E ho detto, sei più tranquillo, se vuoi usare quel punto radio, ho detto, nella sede, dei balanci li piazzi quello, gli ho detto, poi andate nel 27, dove ti pare ti piace, gli ho detto, ma lui, cioè, quando te fai di questi due cessi così, gli ho detto, non te fai niente, a meno che gli ho detto, tu pigli un di quei portate che stava vendendo dalla Midland e ti fa anche la trasponde, piazzi quello e ti fa la ponda, gli ho detto, e fammi pure. Forse ha fatto bene, mi ha pigliato 2000 e era meglio. Sì, ma ha fatto la cagata, poi ha preso l'antenna per la V, ha preso e la X, quella piccolina bianca, non usciva manco volta, non usciva. Io invece ho la X300, io l'ho dovuto aprire per controllare che problema c'aveva. C'era un abito che in pratica non faceva massa e quindi non usciva un tubo. Andava murulata tra un manettone. Ho preso l'ho tutta quanta smontata, ho controllato cosa c'aveva. L'ho ripiazzata, adesso è un bombo. È perfetta. Naturalmente, lo sai, 446 non te li copre perché farà la 144, mi sembra, cioè, a 400 e qualche cosa. È l'ultima, 446 non ce l'avevo. Oh, anche io ho la 300 mia, eppure funziona bene con me. A me non mi vende quella, non mi vende molto, la verità. Forse perché è attaccata l'antenna del baracchino, capito? Sono troppo attaccate. A me l'antenna che mi vende parecchio è la direttiva che sto usando, quella che va da 140, no, 135 mi sembra, o 125 adesso mi ricordo, ma fino a 500 qualche cosa, quella che c'ho, sembra l'antenna TV, già l'hai vista anche tu. Quella in PMR rende parecchio, l'ho messa in verticale, con i portatili, anche l'altro apparecchio non si duro, capito? Rende parecchio, in qualsiasi posto sento tutti mi ascoltano, quindi figura di blu. Anche la Diamond, la verità, quella piccolina della macchina, ci va bene, è agganciata al paletto del baracchino, quella della Giuseppe, la Diamond, solo che non la sta usando lui, ce la devo mettere là fuori, è una bella antenna quella per la macchina, anche per casa mia, nonostante sia un'antenna per auto, però prende abbastanza, io da qui parlavo tranquillamente con Stentino. Ah, io ce ne ho fuzzi. No, Andrea, ma io ascolto anche quelli di Alghero, ascoltavo. Eppure arrivano i vostri nomi. Porto Torre, 7 quanti, ma forse è l'antenna che è stata equilibrata bene. No, io ho l'antenna del baracchino da Manto, perché è agganciata quella della VHF, capito? Ecco perché ho quei problemi. Adesso appena c'ho un po' di tempo, faccio fare i fori nuovi nella lata fiancata del muro, gli metto due staffe e le trasferisco la manta dall'altra parte, e dove c'è la manta, ma adesso ci metto un paletto e ci metto la verticale sopra e la direttiva sotto, col motore. E così sono più tranquillo, cioè che sono attaccate, capito? E quindi evidentemente li danno belli passivi, non vende molto. Ah, io già ce l'ho un po', l'antenna è più alta, quella del coso, della 27 è più alta di quella del PMR, quindi ci hanno a 30 centimetri una dall'altra. Io ce l'ho troppo basso, capito, io c'ho, tu immaginati che la mantova, io ci arrivo tranquillamente con la scala da un metro qualche cosa dal petto, quindi poi ho messo una gamba pipetta, in pratica era 90 centimetri, ci ho messo l'antenna della V, e poi sotto quella antenna della V a fianco c'è la agganciata antenna della mantova, c'è il motore con la direttiva della per la V e per le V, basta. Quindi in pratica mi trovo l'antenna, la verticale che è troppo attaccata alla mantova, qui al palo della mantova, e quindi non mi rende nulla. Adesso quando sistemo le cose mi metto la mantova da una parte e l'antenna della V dall'altra, almeno rende molto di più. Così l'antenna direttiva me la stacco, la conservo. Capito, al limite la piazza da una parte e col motore gli faccio la modifica, faccio fare le 90 gradi, perché fa solamente la metà del giro, capito? Perché poi tocca il palo. Ho capito. Andate. Avanti, grazie. Eia, la mia già è sempre un'e, dai che vi diano si muovi. Ma il capo non operai giambato ancora? Quando c'ho tempo, ma pensa chi truba così la truba, cosa? Ma se non avrebbe funzionato, ma già è antenni. Vabbè. Io ragazzi mi devo allontanare che devo andare a pigliare la signora. Ci sentiamo dopo, se tutto va bene. Devo agitare mia figliura. E quindi ci sentiamo dopo. Ehi, ciao, se non ci sentiamo, al limite se c'ho tempo domani sera lo accendo, va. Vai e fai il dovere, vai Antone. Ehi, ciao, ci sentiamo con una passeggiata con tutto. Ciao, raba. Ok, sentiamo, dai, facci pure che torni in tempo, mi. Vabbè, dai, se in caso non ci sentiamo domani, ok, ciao. Ciao. Che facendo? Facendo stiamo. Tore se n'è andata adesso che deve fare. Va, affoghermi giù. Una commissione. C'è Antonello Pomponio e Gianni Maria se pezzo nell'ufficio piccolino. Cosa? Ho detto che c'è gente a casa, ci sentiamo dopo, ormai mi nascosto. Eia, ok, vai Antonello. Eia, ciao Luca, ci sentiamo dopo allora. Alle prossime. Cava, Gian Maria, finito di fare la cacca? No, non ho ancora finito di fare la cacca, Gian Maria. Aspetta un attimo che è venuta mia moglie, Antone, già dentro su. Ehi, fai intanto io devo fare una telefonata adesso. Ci sentiamo fra poco, ciao. Sono qua, Antone. A fare la cocco è adatto. No, perché già mi sta facendo cosa, però gli ho detto che è venuta Paoletta adesso. E non ho sentito cosa ha detto. Ah, in bagno è andato, via. Sì. Vabbè, no, Antone era al telefono io. Che è morto un nonno di Maiena, faccia l'anima sua, anche lui è andato. Vuol dire che è mancato un ritiro, grazie a arrivi alle dai gioia. Vero voluto arrivi io, però sano, 94 anni. Beh allora da è un pedidretto, pedifura, per cui e vuol dire che arrivi dalla gioia. Vabbè, fa rimane come ti hai detto, meglio se ce l'ha già buscato. mi pare va via l'Alzheimer, era sempre cuccato, non mangiava nemmeno più, ma vabbè, purtroppo è così. Sarò pensato, la picchia è un passaggio. Quando arrivi bisogna andare e basta, è muda che ti ha cagliato. Eh beh, caro credo, ok, lì vengo domani, ma va bene. Già era grande, già ce l'ha fatta la misura. È un grande lavoratore, si è prestato sempre. Era una persona come si deve. Eppure lui ha finito. Vabbè. Beh, io se vuoi fare, purtroppo, sai, siamo dei passaggi, per cui canto di tocca bisogna andare via. E torna il tratto, Sì, ma però si è pensato che è andato a fare quella commissione che fa ogni giorno. Se ce la fa, se non ce l'hai previsto, già rientra. Ma io a 17:20 nei 25 là, nei sacco, a chi devo far conto? Adesso che controllate abbassa, chi sa che abbassa gente? Sì. Forse però mi ecco di tira. Abbassa gente a chi ha inteso che è giusta la padrona. Allora abbiamo ragione. Che la contenta, ragazzo, a chi arriva della padrona. E piglia un altro bocco di giappotti con la giabbassa. A Rinotti non l'ha fatta dormire nuda, tutta la notte mezza e cocca bella scimmia dei cani. E fa cosa la vede Luca? Anche se ne bisava se ne andava in circolazione, circolando invece di dormire. Ma chi ci ha fatto la vetta, dormire da tutta la lì, no? E di notte se ne andava a circolare. Vabbè, ma non disturba nessuno, ho abbagliato. O si può abbagliare. No, ma se rompe le scatole che cammina a rubuccio, si chiude alla banca, a uno e bene. Che ci fate brutarlo? Beh, tu compare già ripicchita, non manco per le burate rosse. No, già ce n'è più da balletta, quella già basta. Ci la bella che sta camata, non ce n'è più da più. Pensiamo che sta male. Voi vedi una cosa, poi siete zappini di Rareci, non li sentite e trombiti non mattenti, eppure niente si può la passeggiare. Allora vedi, non nascio creature e devo comprare le bannoline a chi sta guarda. Ecco un bannolino, si la vedi, ha tre zampi, cammina, Rareci impinnati. Allora bisogna andare a mangiare. Si può mangiare così che ha fame, no? Ma sai cosa vuoi fare? Sa, e noi che andremo a andare lo stirbone lì di cose. Ma l'hai compreso che i crocchetti vi dà, mi è vicino proprio a un degame Giulio. Fare crocchette e un gozzo di leva. A chi l'ha giubilato la banca nuova e rimane rialzata, è vero, un vasoio di leva, un vasoio di crocchette. Già lo sai, prima con l'estra, se vedete a procurare l'estra, no, a mangiare a crocco, magari di chi ci mangiamo noi. E poi andate a mangiare i crocchetti, quando non li dai altro, no, non hai compreso. Non dici che fanno diciamo un poco di riccato e richiede qualcosa prima, capito? E allora, è subito ve la date, maletta con la giabbata, li tocchiamo di riccato. Ma è subito potente, non capisci l'animale, cazzo. Bisogna avere pazienza, mica invece, perché bisogna avere pazienza, anche con gli animali bisogna avere un po' di pazienza. Animale, non so cosa l'ha dato. Era un'ora mattigene, la venne nei suoi di luci. Ma che ingorda! Allora no, Allora se lo devi dire, non si fa questi cosi. Bisogna mangiare un altro soia e basta. infatti mi avete la bella da luce digestivo con la giabbata. Sì, è abbucato. Alla prossima volta sarà figlio. Se ce la vedi se vuoi arrivi, mi riporto un cucù da Diana, mi porto dalla Catrea così, e lei con la recce buntate a cucchennimi. A me che ci sto con i segni, a chi te l'ha compreso che sto con i segni di essa? Sì, l'animale comprende, non accetti. E ho messo con prete, pare che però rimane con prete. Qua la vecchia impinata era un capo girato. A mai denti, cado vecchio per la paio, no. Mi porto dalla cadrea così. E lei da papà e da fa un capo girato e la vecchia punta. Passa via, ciao! Amore, pighere, pighere, amore con l'animale. Un gabbo girato a un fianco e ben mercede con la recce impinnate. Si abbandita un cintuccio, si abbandita, ma cosa si dice? Proprio di tu hai. Vai a che ti ha contro la coppa. Coraggio, non mi avete chiesto, ecco tutto l'animale che ha. Mi avanti entra in vicino alla lianna della cameretta, chi la padrona ci vuole chiudi. Chi deve controllare i giuretti, deve controllare. Lascialo controllare, grazie, lascialo controllare. Mi ha passato in braccio, vicino a me. In capo, una bella, l'ho impallinata a mezz'anni per la recce dritti. Sarà di sette, ma cosa di sette, chi c'è qui chiaro? Sento contro di me, virà, chi c'è fuori? Va un cucino di base, dietro di etta. Mezza trascinata sopra con la copertina. Avanti, mangia le crocchette, che tanto non le do gusta. Aspetta, la signora per entrare di essere. Eia. Sera lo sta facendo. Sentiva ma la radio al momento non usciva. Ma chi tu sei? È sicuro. Ah, giudizio, vizio dai, grazie. Omar conosce il Cibiffi. Buonasera signor Bacchisio. Buonasera, dottor Figaro. Buonasera Graziano. Avanti. Ciao Bacchisio, ben sentito. Funzionenni, le lucette stanno funzionando qua adesso, Giommarino, non sono più fisse, le luci del segnale. Così che ci ha pensato, a che prima nel tracco abbia mamma fatto riposare, aveva portato in giro, ma senti, capito? Così aveva detto. 9+30, sì, e ci abbia macchiato, ma chi viene avanti? E guarda, grazie, io sono più piccolino, io sono più piccolino. 9+30, identico anche tu, anche Tore, vabbè, se di nuovo. Tutti vicini siamo, grazie, dunque, il segnale è quello lì, non fuggi, rapio. E beh, il nostro tempo si è fatto sentire, come ti mai, grazie, cosa è successo? So cos'è che venne cosa, a destra, a sinistra, avvisiti, controvvisiti, e mi anche una ieri l'avevo da diabetologo. Prima me la venne di voi, ma da fra 6 mesi, invece mi ha detto no, ti voglio vedere fra 2 mesi, perché voglio controllare queste glicemie. Boh, la dite cosa mi controlla, se prima stessi su. Ma te le devo seguire, vabbè. E allora ore, a dicembre ti fai vedere, ma da Truvoglio mi ha fatto pigliare l'appuntamento, a dicembre. Vabbè, non si può vedere a fa. Saluta la signora di Tisa sottofondo, avanti ancora. Yami è andata stasera, ha fatto una camminata lì, sì, nella Butti Butti, dove vai a P. Ha fatto una passeggiata, c'è uscita fino a Via Pascoli, dato che lei rientra sul negozio di Riginese, si è pigliato un mal subito e si è tornato a fare a P. Niente di che. Fate saluti da Bacchigio, anche da Gio Maria poco fa. Fate saluti da tutti e due, grazie. Grazie, grazie Ru. Hai fatto bene, hai fatto una bella camminata allora, eh. Ehi, cammina la rete, sta picchiando lo giubbotto. Ehi. Ebbene, si è fatto il pisolino e da prima mai se va mi fosse una camminata e vai a camminare. E già c'era bella sera, là. La passeggiata già andava bene. Ma ancora ieri camminenti, figurati, è pieno i ghibi la sera. Ghibi è pieno, parlo pure ma da un picco, Se si può dire, se ci arrivi mezzo, di sera sei mezzo e sempre di ieri camminenti, capito? Già lo so, ma anche qui di fronte alla scuola, la mattina, da Sant'Orsola, ne vedomi gente anziana, femmine, uomini, camminenti a passo un po', insomma, un pochettino più veloce, senza curri, c'è una coppia di donne che passa ogni amazzano, ogni amazzano, chizzo, chizzo, si vanno tutti a ruire da Sant'Orsola, ne passano in aerodreno, passano che si vanno dal stradone che va a Sant'Orsola. Magari Bacchigio gli anni vedi, buco, ma quando farai campagna, anni vedi Bacchigio. Sì, è pieno, grazie, è pieno. Ci vista ciclabile, non so perché dice, non cicla in cinuzza, alla fine devo andare a chiedere in faccia di grossi, di pedoni, perché da quello grande, perché da nessuno lascia la metà, no, è pieno, e stasera la matessa quando sono stato era pieno, stasera è la coppia vera. Gente che va a farsi la passeggiata lì, è bello pulito, è tranquillo, poi spugnere in periferia, in campagna, lì, e respirare a buona, pulita, si fa venire la camminata. Già lo so, già ci sono andato io un paio di volte, poi ma non mi sono più andato. E fa bene a passeggiare, a respirare aria pura. Lo so, però si va ai lasciati, hai poco di camminare, io cosa cammino? Dai no, che vicino a casa tua, mi fermo due volte, manda la cavaliere, da un dottore, e cosa andare a camminare io? Ma piano piano cammini e si impara. Se tu cammini un poco, ti va a decidere aspetta che sei sempre fermo, invece sei abituato a camminare, non ti lo vado. Ieri quando sono uscito dal diabeto, da lì, dal Palazzo Rosa, tutta quella salita che c'è lì, per arrivare fino a Via l'Italia, mi ha già fatto a peggio che arrivi dall'Ingapura, va via Rugura 300, e mi sono confermo la buia. No, a chi tu vai, invece a Stani via Montegrappa, fai a Giosso e passi via di Nicola, ad Anastasia Pidali, ed è quasi in piano, io da posto che c'è strada se stai andando. Ma la macchina mia figlia ce l'aveva messa su a tutti lì, capito, proprio all'imboccatura di via l'Italia lì. Allora, è obbligato, se no ti allungavo la strada, capito, allora è obbligato. Avanti Gian Marino. Avanti, magari la buchi, ma che bicicletta si fa passare la pista ciclabile. Ma che questo lo cliente l'ho cacciato ferma, che si ferma. Non si forza niente, non si forza le cazzo per la bicicletta, capito? Si ferma di mezzo e in mezzo di macchina. girare le informazioni di bicicletta e non come le manca a passare di Iraki. Io sei pieno in mezzo. È sempre pieno di niente, infatti io da che fare in bicicletta passo in altra strada, la pista ciclabile non può passare anche per gente. Infatti, che se tu sei già alla pista ciclabile che tu non puoi camminarci, io sei in piedi. Che sono capace di camminare la strada. La strada è lotta, non l'hai detto il giorno del giornale. Chi di massa ha lappato tre ciclisti, addirittura uno è morto. No, se ferma si è fuggito. E l'ha pizzicato a 94 anni. Vai tu, 94 anni e guidami la macchina, ma si assibbiati. Parola di bizzicato, si è portato la macchina da rugare. No, chi sono? Quello lì sto dicendo. No, no. Ah, quello è un altro. Questo di 94 anni ha investito una signora nei corsi pedonali ed è grave. Ah, sì. I pedonali, 94 anni ancora guidami la macchina, Mario. Intendo, chi tu 94 anni guidami la macchina ha investito una femmina. Una l'ha fatto tre ciclisti e la pistola l'ha investigato da un carrozzini con la macchina ma fatto la cunza e non si è fermo. Lei che non costa mai, bisogna stare pazienti, bisogna stare pazienti che io già non mi sono riuscito a dire ma se tiro i loghi cazzo e sono più tranquillo. Se a Rubiano a Baitese pure faceva la precedenza mi fermo io da chi sono fin nel camino. Ti conveni, è stata la ciclabile sei preoccupata però è strada aperta, non ti conveni andare anche pure la buddibuti la giudizio macchina. Sì, sto facendo cammina a razzo con la otta e per la gara a Baita da vedi. Quello mi chiedi fanno un'altra, una dritta a sinistra di pista ciclabile, la parte fa il velone e la parte di biciclette. Invece è un misto, i cartelli, ciclabile e pedonale. E dunque la gente viene più a piedi che in bicicletta, che in bicicletta non puoi andare. Sì, puoi andare in bicicletta, ma ti prendi la banana, poi ti dai passeggiare. Se è pieno di gente, come ti fa? Ti posi in bicicletta, devi cazzarli e capace di dire di buona cosa e ti scusi. Non mi cazzo che c'è qualcuno. Cosa? Non ho capito, cosa hai detto? E schiacci qualche d'uno, ma che non si porta di no, tu sei un campanello, nuda, c'è il macante. Oh, ya, per carità. E chi sta di via l'Italia rimane la viuta, ma dici mi figlio la massa non ci passa nessuno. Qualcuno che vede in bicicletta passa in mezzo alla strada. E la pista di club la cosa l'ha rifatta a fare. E quindi di no. E quindi di no che ci sono. E allora, ui, per carità. Infatti, a me ne rimane tutti via l'Italia, ma qualcuno l'ha di visto in bicicletta. Per carità. Comunque bisogna stare attenti a chi si esce in bicicletta, ma con di la gente ti ne vengono dalla rete e ti vanno pure, per carità. Allora dimmi tu qui, c'ho 94 anni, guidando con la massa, che so se va via buffa fenti. All'inizio bisogna appoggiare la patente e pure il fuoco, e dopo andare a piedi. Secondo me non aveva patente, ma ti pare che dai una patente a un 94 anni, ma scherzando sta. Se è abile alla guida, te lo dico, non dire che era abile. Raga, abile a una certa età, io ne l'avevo bucati, fai a 70 anni, poi se fusta, buia, e basta, cosa, ma stiamo scherzando. Dai, non bisogna più andare, la gente è morta di gira, non me ne ha fatti nulla, tanto non ho più andato a nessun luogo, ma ne ha gira. Va bene, non so tutti che la pensiamo in te. mi chiedono 80 anni ho ancora patente, venivano in occhio di fronte all'orologio al dottore Gian Maria, l'avevo visto qualche volta, diciamo anziano basso Gian Maria, di fronte al dottore, c'è da piano terra. Chi se quella macchina è un pericolo pubblico, va una 600 va, è un pericolo pubblico. A Gian Maria ci si è assentato. No, ha detto che erano negenti, mi batte. Ma ce ne sono tanti, io ne vedo qua a me. Era uno, ma te, che era col Camuri e tu lo vedi, ultimamente gira in macchina e patente non ne aveva più, le avevano ritirata. Infatti già si è morto, dopo un paio di mesi, così. Dopo un paio di mesi è morta, si va via un tumore. E tu gli dava la matrice con la massa, se ci ha fatto la prendamenta, a pigliarsi di pizzi in macchina, senza matrice, ma buffonelli. Vedi, chi sono i vestigiani? Chi sono i vestigiani? Era sempre passato. No, arrivato a queste dai, ancora la patente, lungo, 80 anni, basta, si è arrivato al limite massimo, non viene più. Vabbè, a me non mi ha tutti in giro, a me la femmina mi ha detto, te guida tu, vai, vai, la camera capo non mi ha tutti in giro, guida di là, non mi interessa proprio in giro. Oh, quando andiamo andare a Cacchellogu, ti è lì per la mia compagnia, adesso non abbiamo il bello di là, va. Io, quando c'è andato in città, mi vedo un dramma. E non so cosa dice, verrende un capo, difende il posteggio, girando la macchina dritta. Ando in tram e via. Mi vedo la parte di Roma stessi. Se deve salire in città, è difficile che ci sale in macchina, se no si piglia un dramma o un trenino. Prima che arrivi prima, non ti butto legge un capo, ma un parcheggio. E arrivi prima. Molto prima. Io vado a fare visite, ripilare da papà, oppure a prenotare le visite. Mi piglio un dramma, con un biglietto a te farò. No, a prenotare già telefono da qua io, mi stamattina ho telefonato da qua, al cupo, e me lo prendo così l'appuntamento, mi danno il numero dell'appuntamento, me lo scrivo, mi dice il giorno che devo andare la data, io gli leggo l'impegnativa della visita che devo fare, gli do la matrice. E mi dice quando mi vada, non ci vado io a fare fine, dico, oh, telefoneggio e me lo piglio da casa. A noi io ando, ando chizzo, con un manzano, all'otto sono qui da, sono sempre rubito un secondo. Posso e mi ricordo subito. No, io la maggior parte se non devo uscire, se esco che devo andare lì, magari in zona o lì vicino, allora entro e me lo piglio l'appuntamento, così. Ma se non ci devo uscire, prendo il telefono, aspetto un po' col telefono fisso di casa. E poi quando mi dà la linea gli dico che appuntamento devo prendere, siccome minuti mi dici quando devo andare e quando non devo andare, me lo scrive un pezzo di foglio qua e poi me lo segno nel calendario e faccio anche così. Anche così si può fare, ma siccome quando è andato, lunedì scorso, no, giovedì scorso. Sono andato e non c'era posto al cupo, dice no, dice ne parleremo il prossimo anno. Adesso io devo fare una visita e il piano terapeutico, bisogna rinnovarlo. Non ho niente da fare. Allora mi ha detto la signora, si faccia una cosa, se va a via Tempio, che c'è il corso, il centro cupo, diciamo sì, dove smistano tutto, vada lì e gli fare il ragionamento come deve essere. Sono andato, allora ho detto, sì, sì, domani mattina la visita c'è, e se non lo veniva. Già lo so, secondo cos'è, l'altra volta già ho un imbranato, non sappiamo manco un buttava i piedi. La giudizio, siccome ti devi fare quelle ultime due visite che ho fatto, l'ecodoppler, superiore, devo fare l'ecolopra alla ora, alle vene, no? E l'ecolopra alle gambe. E mi ha detto che erano i due appuntamenti, la giudice un capo va e giù due appuntamenti. Mi c'è sempre un medico che me la fa questa vista, non so che oggi a farla. E allora chiami domani, un quarto che non sappiamo a quello cosa era di sé. Infatti il manager ha chiamato e gli mi ha risposto una femmina, se mi ha dato appuntamento sì. Un imbranato era lì. E vedente di Vitrento, conosciamo che gli porta i bidi, ci viene a 30 le volte, a 30 alle 17. E ve ne so già. Bisogna pigliare la mano dente, per capire, filo per segno, cosa deve fare, in galluppo, sono tremendi, so. Ma c'era un aereo, cacca appassionato, si mi ha detto, ma quelle sono due visite, ma fa scherzando. Quella è lo stesso medico, mi fa tutte e due spesso, mi visita il collo sopra e poi mi visita le gambe sotto, mica non è la prima volta che l'ho fatto. Sì, ma che lì ci vogliono anche due impegnative, ma numeri si rendono imbriaco, sì. Ha detto, mi faccio un'infermiera, dire una signorina, che cazzo c'è lì, cosa sta dicendo, non sappiamo a come buttava i beni. Viene più duro che non comprendi proprio un tubo. Certe volte sono impegnativo, poi fa due visite. Anche bisogna specificare, cosa una e l'altra. No, non va bene. Deve portare un'altra impegnativa, questa è una e questa è l'altra. Ma c'è sempre la stessa ambulatoria, le ragioni fa la visita. Non c'è nulla. È il dermatologo, va, ha l'appuntamento dermatologo il 31 di questo mese. La famosa sono andato, ma dice no, dice, deve fare un'altra impegnativa per vedere l'altra cosa, la spalla. Anche ma c'è la spalla destra, la spalla sinistra, non è sempre la volta sicura, sempre io sono, no, ci voleva specificato. Quindi è gente matta, per carità. Pesci che chiudo là. Ciao Bacchi, ce la sentiamo domani, di non aggiunta che fa già l'accendo. Ciao Gian Maria se sei in ascolto e ciao Ottore se sei in ascolto. Ciao Antonello se sei in ascolto e sparito pure Antonello. Va bene, ciao agli ascoltori, ciao Bacchi. Ciao, grazie, ciao, buona serata, buona cena. Saluta la signora, a sentirci. Ciao, ciao. Ricambiato, ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo, dai, ciao, sono in casa. A domani. Ma sentilo però domani. Ok, ciao. Ciao, Gian Maria, anche a te. Ciao. Ok. E così è Bacchi, purtroppo. Vuole fare tutta consulenza, ma cosa hai fatto impegnativa quando sei sempre in un ambulatorio, non so chi. Ma cosa giamba? Spalla destra, spalla sinistra. Mi devi guardare, la destra e la sinistra. Con l'impegnativa c'è scritto destra e sinistra. A chi per la destra ci vuole l'impegnativa, ma per la sinistra ci vuole un'altra? Io te l'ho già compresa. Perché se l'impegnativa bisogna specificarlo alla dottoressa, metterci a destra e a sinistra, boh, e vedi dove non si vuole attaccare nessun luogo, capito? Specificato, spalla destra, spalla sinistra. No, due visite ce ne sono, non è una visita sola, sono due visite, due impegnative. No, saranno. Il effetto così, destra e sinistra, la devi fare perché è giusto come te vedi qui. Infatti gli ho detto alla dottoressa, sempre io sono. Sono sempre io, sia a destra sia a sinistra, lei mi deve vedere una parte e l'altra, la differenza eccetera, una a destra e una a sinistra. Dicevo per la sinistra ci vuole impegnativo, per me ci vuole un'altra. Adesso glielo faccio per la prossima volta, dice non gliela faccio. Ma c'è specificato sull'impegnativa la visita a destra e la visita a sinistra. sta cosa ti devo buttare due impegnative io? Perché dopo dico sono due visite, ma se si è spiegato destra e sinistra, devi fare due visite, va bene, te ne segni due, perché ti pagano per due visite, perché c'è scritto destra e sinistra, tu ricevi la paga per due visite, perché ne stai facendo due, no, due impegnative. Evidentemente magari hanno l'ordine così, però secondo me non è giusto, però secondo loro è giusto che sia così con due impegnative. Oppure vai, tanto che sei lì in ambulatorio, dici, mi sento così, che cos'è? Mi porta impegnativa, non te li guarda neanche. Sì, guarda, poi non c'è problema con la matessa, e cambia sempre, perché la prima volta sono andato, ho trovato una, ma detto, cioè, bisogna fare un intervento, bisogna tirarlo fuori, va bene, mi fanno una ricetta urgente, sono andato in clinica e non ho fatto l'intervento, quando mi hanno tolto i punti dice deve andare al dermatologo per farsi vedere, prende, vado e ne trovo un'altra, sono andato con l'impegnativa. E mi fa, dice, e io cosa gli faccio lì? Io gli posso fare solo la cicatrice e basta. E tu, a me mi hanno mandato dalla chirurgia, da lei non so cosa deve fare. Se ti vuole, dice, io vedo solo la cicatrice e non so dirle null'altro. E mi fa mandato. Vabbè, forse magari per controllare la cicatrice e basta. Infatti poi sono andato, sempre ne ho trovato un'altra, ma dice, sì, bisogna fare nuovamente l'intervento, su quello lì bisogna fare l'intervento, perché quel pezzo lì non è tranquillo, bisogna scavare ancora di più e approfondire. E mi hanno dovuto mandare in clinica, in ospedale, a fare l'intervento. Quando sono uscito poi, le cucite e tutto fatto, secondo me è da, bisogna ritorni in clinica universitaria a farci fare un altro intervento. Hai detto, ascolti dottore, adesso questo taglio e cucci e ne ha già bruciato il vieni. E si vedi? Sono arrivato io. La spalla destra e anche alla sinistra, capito? Un tumore c'è. Avanti. Sì, buonasera. C'era poco fa che c'era Antonello e Graziano. Ha detto che era Giuseppe andava a pigliare la signora. Ah, si può rientrare. Buonasera, signor Marchisio. Buonasera anche a lei, dottore. Buonasera. Aspetta che andiamo bene. Ah, signor Marchisio, vuoi tornare a scavarti? Adesso vediamo il 31, cosa mi dice il 31? A vedere se ci ricordo appunto, ho bisogno di andare a fare in miniera. Aspetta che andiamo bene, andiamo. Ui, tanto va bene, non è detto. Anda bene, se la riprenda signor Giomaria. Ma infatti è questo, ma c'è una cosa che ci deve fare. Bisogna anche farla, ma se è veramente necessario però, non è che senza risolvere ai frugiani e state tranquillo ma te ci lo battete, boh, non lo so com'è la situazione. L'ho fatto in atto, solo che è frugia basta, a voi che è buoni. È frugia, è fatto in fretta. E già te la sai, come in tanti, si spoglie, si mette sul lettino, si mette a faccia a terra, e c'è già i capelli. Ma trombizzano Marco, dai, Marco. No, è scidato te lo fatene. È scidato, intendi tutto. Il discorso locale, l'anestesia locale ti fanno, intendi tutto il movimento, dammi questo, dammi che dà, aspira qui, basta, e diventa macchina. Vabbè, facciate che si può chiamare però. Già lo senti. Quando sta strappando, perché non tagliano, strappano. E mi diceva, dottore, c'è tutto dolore, stiamo strappando. Ma è tutto strappato, non finiva più. Perché? Per carità. Cura capi buoni, cura capi buoni, ma chi, per carità, però una cosa è sempre necessaria e bisogna fare. Se no magari la poi peggiora la questione, figlia, e ci siedi ancora. Così è, signor To. Sì, sono Giulia. E non ha mai dato nuda, non gli ha fatto nuda che c'è niente. Ti è tagliato la bossa, capito, è così. Capi buoni, più buoni. Però c'è una cosa necessaria, e anche bisogna anche sopportare anche quello. Infatti, in clinica, sempre lei qua, sono diventato legato, ormai sono di casa qua io. Ma perché? Ma sei interventi hai avuto? Quanti interventi hai avuto perché? Tre. Sempre allo stesso punto. Sì, sempre lo stesso. Certo. Sotto la voce ad accavarmi in un dente, una cacciara, a dottor Porco, a via Napoli, mi fa dell'anestesia, mi faccia e mi rogava, e mi cura, e mi ha cucito. Cazzo, prima mi fa chiamare, quando arrivo a casa a buio la sera mi fa più male ancora. Se usiamo due o tre dì, non si può riuscire a spostare, cosa mi faccio? Mi stai tagliando un pezzo di letto e mi ha ricucito. Mi è toccato andare che dà, a strappare, torna, ma capami in un pezzo. Tappiamo, non si vede nulla. Ma se ti immaginati che quando mi ha trapito che ti manca un pezzo, ti lo metti in capo, no? Il fornicente, quando dice il fornicente, guarda se mi ha cacciato un pezzo, no? Cazzo, ha cucito una testa, ha tagliato l'ore, ma chi? Pure un capo, fa di amare. Lo so, voglio. No, io vado in occhio del cavalieri, al 26 occhio. Infatti, ragazzi, dottore, cosa vuole, anestesia o senza anestesia? O anestesia, se vuole senza anestesia ti spavio 20 euro, e per 20 euro mi tengo l'ore, oh, vai! Palla, cazzo, devo dire, non ti dice di niente, cazzo, cazzo, chi riesce, cazzo, uia, cazzo, ma che i tagli fanno rimare, e parli però fanno rimare. No. No, non bisogna poi dare di là, bisogna poi dare ciabè, non me la putti nulla, 20 euro, o magari se tu lì senza anestesia, vedi, pure di sono bambini e mutandini, o saranno, vai, faccia lo so, non niente risparmiare, avanti sole. Infatti, già mai da, non bisogna mai da tanto di là, bisogna mai da la Giarulli. Quello che c'è da fare bisogna fare, c'è migliaia in cui vedi là. Lei ora ci fa due visite a pagamento. Quello da stomaco e quello endoscopia da riso, cazzo, e la giù fatta a pagamento, anche la prima volta la giù fatta senza hai citato, ma poi mi messi in luce, ci sta già molto vero, cazzo, meno male mi ne ha cavata piano piano e la mano infrantumato. Allora, seconda volta, no, ha detto, se lo faccio dormire è buono, se no non lo faccio, mi ha male fatto le figlia, ho fatto io, ho pagato e me l'hanno fatta addormentare. Ma sono lo stesso, non l'ho fatta, non mi sono accorto di niente, nulla. Io l'ho fatto l'ospedale civile, endoscopia, me l'ho dormito però. Sono andato la mattina, appuntamento, mi metto sul lettino così, mi fa l'anestesia, però andato per dormire e non avevo dormito. Nel frattempo le si è messo già a lavorare, a infilare. E ho detto, ma a me sta facendo male. E mi fa un'infermiera, in salto. E mi non è non essere questa cosa, è essere somma. No, cazzo, fate la vita e fate la buona di fatere, capito? E così fate a obbedienti. Ho mai dormito da voi e mi sono recitato il ruletto, gli avvettuti, con i pecciti, con le botte e tutto, pronto a partire. Io ho fatto il seduto, ho fatto a pagamento a policlinico e l'ho messo d'accordo, però la prima volta l'ho fatto sì, io a venire in mira, cazzo, per carità, va bene, tanta giustizia, perché non riesco a ritirare, non riesco a ritirare, cazzo, anche mi sono ritirato con un asio, anche la bocca mi era impegnata e ci andavo, ehi, cazzo, me l'ha rifatta sì, però non so che cosa è, tutti che hai detto no, ho dormito niente, cazzo, è troppo, cazzo, non morirà per morire il drone, mi sa, ma chi? Sì, ma l'oppia, non ti ho visto l'oppia, adesso l'anno scorso, ricordo, ho fatto la biopsia. L'anno scorso ho fatto la biopsia. Il 14 pistole state, ma ne ho oh. Ehi, caspita, andiamo, ve andiamo. Uiuia. Quando te lo devono rifare, il 31, così è. Non sono vista del Bartolucci, già, capito. Le cose sono complicate. Da quando sono stato normale sono stato in ospedale. Che un giorno ero in campagna, questo periodo degli agrumi era. Sono morto da panno. Allora, 7, papà mi prendo, mandarino e me lo mangio. Tranquillo. La sera tutto bene. L'indomani non avevo voglia di niente, stanco. Ma... stavo andando in campagna, la metà strada mi sono tornato a casa, però non vado, ce l'ho vera volta. E mi sono coricato. La notte mi è venuto questo colpo di tosse, cosa varia, nulla va. Mi è venuta la febbre. E cos'è? Mi sono colto al letto anche, perché mi sono coricato, mi sono venuto al letto. E cos'era? Imbriaco, forse, cosa strana. Allora a mezzanotte dice che è venuto, io non mi ricordo un tubo, è venuta l'ambulanza e non c'era ossigeno. Allora ho preso l'ambulanza con l'ossigeno, mi hanno portato all'ospedale e sono entrato in coma e mi sono portato nei pedali. E poi, dato questo fatto qui, è successo, non mi hanno fatto le analisi, la Bavaria, ma diceva cosa ha fatto. Ha detto così e così, questo ne parliamo dopo due giorni e mi sono svegliato. E così e così, ho mangiato una gru e così. Ha detto che invece ha un'infezione dai errati, l'infezione del sangue. Il topo era passato sul mandarino, e io ho toccato il mandarino, che l'ho sbucciato, tu quando lo sbucci tocchi la buccia e poi tocchi anche il mandarino, e ha preso l'infezione del sangue. Certo, se no dove sei andato? Ti ho fatto il tuo gozzo, ti ho fatto uno. E anda. Ma... se andiamo bene, andiamo. Signore... ma... ciao Mari. Ehi, uia. Insomma, ogni tanto viene una, ma non si da solo, ma chi? Sai, ma poi a una certa età è peggio ancora, capisco? Escono tutti i malati. Davvero. È un macello, cazzo. Per carità. E io ultimamente, boh, strano, Mattecci. Ma, cazzo, è sempre mamma di pancia. E non si sa cosa, sai, ragazzo. E invece, se si è crepato qualche emorroide all'interno. Io andavo in bagno e facevo sangue e già era così stesso. Sono stato una vita senza mangiare, sono a fuori un flebo. Ah, non peggiori, non peggiori senza mangiare, flebo e basta. Sono vecchini che sono sceso, sono vecchini, ti puoi immaginare, cos'era, sono da che fatto di che si è fatta questa morroide dentro e mi ha fatto quell'effetto. Io mi sono cascucciato, poi andare in bagno a fare sangue, cazzo strano, e mi hanno ricoverato subito. No, grazie a Dio è andato tutto bene, ancora mi sento bene, va. Meglio così, andiamo e andiamo. Sì, se sei tu non stai uscendo, Adesso uscendo, vuol dire il microfono ha finito di parlare. Poi se arrivi da chi sono non ha più gara sul microfono. E tra cos'è, Bacchi? E dai, sono già le 8, approfittiamo, dai. Cala che non ammalanni, per carità, ma speriamo bene, Bacchi, allora dai. Buon proseguimento serata, saluto in casa, Bacchi. Idem, attore. Cerchiamo domani, se Dio vuole, torni per il tuo occhio, dai. Buon proseguimento serata, buonanotte, a domani. Ok, ciao Giovanni, ci sentiamo domani. Figlia di signor Bacchi. Ciao Gian Maria, buona serata, saluto in casa, a domani se coincide. Bene, Tore, anche io ne approfitto perché sono le 8, ora di merendero. Saluto in casa Tore, a domani, ciao, buonanotte. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani. Ciao.